in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Diciamo. A noi i giornali servono per girare il mondo, avere un panorama totale. Il rito biologico prevede il caffè innanzitutto e poi l'innaffiamento del terrazzo. Sì, è vero, è giusto, giusto. Allora, questo per me è un confine di civiltà. Scusate, ma oggi veramente dobbiamo tornare. No, ma dobbiamo tornare sui banchi di scuola. Sono un anarco liberista come Giannina, eccetera. Insieme a Socrate e a Martin Luther King. Ma manco Madre Teresa di Calcutta. Gli Stahelm, gli elmi d'acciaio e così via, che poi confluirono nel DAP, che poi confluirono nello SDAP. Quella roba vintage di prima, la rubrichiamo sempre in quella roba già vintage. Scusate, ma diciamo la voce non è il mio forte oggi. Dite calcio la voce perché sono come sempre troppo al di là. Vabbè, siamo proprio cult. Il più imponente piano sulla... Io avevo avvertito che questo più natalità di così, ragazzi. Sto coso per il bambino è meraviglioso. Insomma, le vite delle persone sono al centro del nostro progetto. Ma voi siete matti nel cervello, cioè. E vabbè, ce ne facciamo una ragione. Vivremo, racconteremo altre storie. Reach out and touch faith. Popolo dei già svegli, buongiorno! Siamo già qui pronti a raccontare nuove storie insieme a un grande della satira, un nuovo protagonista della satira contemporanea, Pinuccio. Buongiorno! Buongiorno, buonanotte! Per la prima volta sveglio, possiamo rivelarlo, perché lui fa parte di quegli artisti flâneur che dormono fra le lenzuola fino a tarda mattina. No, se magari Antonio Ricci mi fa svegliare presto la mattina. Davvero? Quindi, no, sì, sì. Ha cambiato le mie abitudini. Comunque, buongiorno a te. Allora, buongiorno. Pinuccio ha appena scritto un libro molto interessante, Trump Advisor, in cui racconta un viaggio vero che ha fatto Trump, no? È assolutamente segreto, ma che ha fatto in Puglia, in Puglia, sì. Pagandomi naturalmente, passando anche un po' dalla Basilicata e dalla Calabria prima della partenza. Ci teneva, no, a questo viaggio? Assolutamente, assolutamente, lui ci teneva perché insomma aveva sentito parlare dalla Puglia, dalla figlia di Ivanka, che poi ci ha raggiunto anche corso del viaggio. È stato tutto molto bello, no? È stato tutto molto bello per lui, perché poi siamo stati in un territorio che lo ha ispirato molto. Ha detto insomma, la politica statunitense dei prossimi anni sarà... E qual è il territorio? I trulli? Cosa... No, no, assolutamente. Lui è stato ispirato dall'Ilva, da Cerano, ecco. dal Cara di Bari. Posti che gli sono piaciuti. Va bene, allora entriamo insieme a Pinuccio nel racconto della contemporaneità e nel fritto misto del giorno. E vabbè, ci accompagna Bruce Springsteen, visto che c'era di là Trump, non si poteva fare meglio. 지상 대 지상 중장거리 전략 단도탄 북극성 이용 시험 발사에서 fanno un po' paura questi coreani quando annunciano i lanci dei missili con questo tono, Pinuccio, ci parli mai con qualcuno di loro? Sì, io in questo, cioè, da un po' di tempo a questa parte ho un gruppo su WhatsApp, gruppo Guerra, dove naturalmente tutti quanti i politici, i capi di Stato, insomma, conversano su questo argomento. L'ho creato io questo gruppo, anche se Gentiloni ogni due per tre chiede sempre ma perché sono stato inserito in questo gruppo. Cioè, lui non... la Merkel parla, Macron, tutti quanti, ma lui non... non riesce a capire perché l'ho inserito in questo gruppo di politica estera. Allora, Di Maio, è la notizia del giorno, attacca su Banca Etruria, dove è scoppiata una mezza guerra mondiale. Il PM che aveva testimoniato solo pochi giorni fa è stato costretto a ritrattare, ha scritto una lettera di scusa, ha detto che non è stato capito, che lui annuiva, invece non voleva dire sì. Insomma, un pasticcio, e Di Maio attacca. Guardi, ormai quella gente non ha più alcuna credibilità. Faccia una cosa, rinunci a voler governare ancora questo paese, perché sono persone che non hanno più nessuna credibilità. La loro parola a livello nazionale e internazionale non vale niente più. Chiedevano di chiedergli scusa qualche giorno fa, adesso scopriamo che questa gente è ancora più coinvolta di prima. Sono persone che hanno utilizzato lo Stato per gli affari loro. Si è riaccesa la polemica e la Boschi, dopo 8 mesi, ha deciso di querelare l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Insomma, grande confusione sotto il cielo, e Casini ha praticamente cercato di difendere il PM di Arezzo. La lettera del procuratore di Arezzo è soddisfacente, chiude, diciamo, la vicenda. Chiarisce. La lettera chiarisce. Vabbè. Quindi la vicenda è chiusa. Vediamo, non decido io, non devo decidere io in solitudine. Io ho trasmesso agli atti e ai membri della commissione la risposta, che certamente nel punto specifico chiarisce. Pinuccio, dove li tieni i tuoi risparmi, così per capire, in America, in Italia? No, nel doppio fondo del divano letto IKEA. Ah, ecco, perché è sicuro, no? Sì, abbastanza sicuro, anche perché per smontarlo, cioè già montarlo è difficile, smontarlo quel divano è impossibile. Quindi, in realtà neanche noi riusciamo a prendere ormai, quindi stavo là. Ecco, sono sicuri, bene. Pizzarotti, torna a parare Pizzarotti, anche lui getta una colata di olio bollente sul suo ex movimento. Se il movimento non va a governare, come non è avvenuto in Sicilia, la posizione più comoda che possono avere è stare all'opposizione e puntare il dito, mentre diamogli la possibilità e vediamo cosa succede. Secondo me non c'è neanche bisogno di tranquillizzare, come dire, a livello nazionale, come dice Berlusconi, che sarà, come dire, lo sfascio delle cose finanziarie, perché sarà il pantano più totale, come avviene a Roma. Torna a parlare Brunetta e pronostica giorni neri per Matteo Renzi. Ultimi sondaggi, il centrodestra verso il 40% e la sinistra in frantumi. Scende in pista Grasso, presidente del Senato, e Renzi trema, perché se Grasso va al 10% con la sua sinistra, a sinistra del PD, matematicamente Renzi va sotto il 20% e perde tutti i collegi uninominali dell'Italia appenninica, dell'Italia rossa. Oggi i giornali sono dominati da questi pronostici. Come andrebbe nella tua Puglia col collegio di Gallipoli, dove corre D'Alema contro i renziani? Ma io credo che in Puglia, come nel resto d'Italia, alla fine questi stanno litigando e vincerà Berlusconi. Perché questo è la stessa cosa che ha detto Brunetta. Purtroppo dare ragione ad uno che non viene nei selfie è difficile, però perché non riesce a venire, perché l'asta è troppo alta. Però il PD gli ha fatto la legge, Di Maio e Renzi litigano e nel silenzio, diciamo. Però non mi aspettavo una battuta su Altezza di Brunetta. La fidanzata su DJ Fabbo. Dolori, gambe, corpo, braccia, dappertutto, per cui veniva sempre somministrato qualcosa per non fargli sentire i dolori. La domanda, Valeria, ma che vita è questa? È un audio un po' sporco, perché nell'audio del tribunale però racconta la durezza di questa agonia. Gli veniva sempre somministrato qualcosa perché non sentisse dolori. Qua non ci sono battute, è una pagina di sofferenza per chi vive questa difficile condizione del fine vita. Pinuccio. Quando si tratta di temi che portano a volte la civiltà di un paese, insomma, noi siamo un po' indietro. L'inno dei Bossiani, bruciare il tricolore. Perché siamo padani, abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore. E che dici, Pinuccio, del tricolore? Ma non lo so, a me è capitato pure di farlo, ma solo perché la fornacella non si accendeva a Capodanno e non avevamo finito la Gazzetta del Mezzogiorno per il Capitone, però diciamo non si deve fare, anche se in Italia il tricolore, non so perché è accostato alla destra, non si è capito perché, e io mi faccio sempre questa domanda, il tricolore è sempre accostato ma un tempo tutto cambia, e oggi la notizia di oggi è una cosa un po' schifosa, un finto volantino LBR in cui c'era Salvini dietro la bandiera a 5 punte con un fazzoletto in bocca, ma orrore. C'è di quel volantino di cretini delle Brigate Rosse che è girato su Facebook, ho solo detto che evidentemente non mi fanno paura ma mi fanno pena, e io vorrei vedere, non ho ancora sentito una parola da Renzi, dalla Boldrini, da Grasso, dalla Boschi, sempre pronti a vedere l'allarme fascista, l'allarme nazista, l'allarme russo, l'invasione degli alieni, quando circolano immagini di pessimo gusto che rievocano anni devastanti, anni di piombo che hanno contato decine e decine di morti, come quelli che ci ricordano le Brigate Rosse, però evidentemente certo tipo di violenza ai compagni più di tanto fastidio non lo dà. E qui la cosa da dire è che non era solo un'offesa a Salvini, è un'offesa a Moro, alle vittime della scorta, a tutti coloro che hanno pagato un tributo di sangue. Calenda contro Emiliano, qui mi interessa Pinuccio, sulla questione dell'Ilva. No, io sono sempre pronto a sentirlo, vederlo, parlarci, del resto come avevamo fatto l'ultima volta che ci eravamo visti al Ministero, dove lui era molto soddisfatto e aspettava la convocazione del tavolo di Taranto, poi si vede che ha cambiato idea e ha fatto un ricorso. Non è importante, la cosa importante è risolvere questo problema e non allontanare da Taranto un piano ambientale importante, un piano di investimenti fondamentale. Quindi il mio invito è sempre lo stesso, ritiri il ricorso, apriamo un tavolo di confronto, anche perché non si può chiedere di aprire un tavolo di confronto quando il confronto lo si sposta nei tribunali. Ci parli spesso con Emiliano, tuo corregionale? Ultimamente di meno, però parlo spesso di Taranto, proprio ieri l'ho fatto, dopo che abbiamo ricevuto delle foto in cui abbiamo scoperto che le coperture sono ferme da mesi, le coperture per i parchi minerari ferme da mesi e non si capisce perché si chiedono proroghe al 2023, però diciamo rivolgersi a dei tubici vuol dire che su Taranto la politica nazionale e regionale ha perso, perché non si è data una speranza a questa città, dove ieri nel 2017 era ancora Wind Day ed era consigliato ai bambini del quartiere Tamburi di non andare a scuola. Wind Day, i giorni in cui si resta a casa. Maratin sul reddito di inclusione. Ci sono 4,8 milioni di poveri in questo paese, con i soldi messi in legge di bilancio noi stimiamo si arrivi fino a metà. Guardate un po', metà ovviamente non è soddisfacente, ma ricordiamoci però, che fino a ieri sera l'Italia era l'unico paese che non aveva uno strumento di lotta alla povertà. E Gratteri, l'ex procuratore, lo storico procuratore antimafia, si scaglia contro Gomorra, pensate. Chi produce, chi scrive, si deve preoccupare di quello che è poi l'effetto sulla collettività, cioè il senso dei film e anche quello di educare. Se poi noi vediamo davanti alle scuole dei ragazzi che si muovono, che si vestono, che usano le stesse espressioni degli attori, dei personaggi di questi film che trasmettono violenza su violenza, mi pare che il messaggio non sia positivo. E Crozza, grandissimo, è tornato ad imitare il Cavaliere. Prometto, sì. Cure godoncotoniatriche. Credo si dica odontoiatriche, non credo, eh. Io prometto, sì, cure, sì, del dentista, gratis. Ah, ok, del dentista. A voi, sì, al vostro cagnolino. Sì. Ah, pure? Meglio se di razza Beagle. Ah, vuoi sapere perché? Lo intuisco, non lo dico. Perché io una volta avevo un igienista dentale, sì, sono sempre trovato benissimo tutte le volte che tiravo fuori il Beagle. Esatto, lo sapevo. Con chi parli? Con Crozza o con Berlusconi nelle tue telefonate? Parlo con Berlusconi. Vabbè, e che vi dite? Non... Beh, lui adesso è appassionato di pecore, no? Sapete? No. Sì, adesso lui ha un allevamento all'Locorotondo, dove, insomma, All'Locorotondo. Dove è diventato animalista, si è fatto questo gregge di pecore, sta lì tipo Santone, noi andiamo a trovarlo e ci parla. Vedi? Sì, sì, sì. È bello, eh? All'Locorotondo, sei sicuro? Non Costa Azzurra o alla Certosa? Di nascosto? No, di nascosto all'Locorotondo, in Valle d'Itria. Va bene, ci fermiamo un momento per le strade e torniamo con Pinuccio e già svegli subito dopo. ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I già svegli. Appena sveglio e a colazione, mentre vai al lavoro, sei in buona compagnia, ci sono proprio loro. Parole ben spese di Primo Mattino, con Luca Tedese c'è Oscar Giannino. Sono già sveglia perché le ore della mattina sono imperdibili. E poi volevo complimentarmi con lei, paventavo l'arrivo del nuovo presentatore, però tutto benissimo. Ciao Luca, sono già sveglio perché devo andare a lavorare, però soprattutto perché mi piace molto ascoltare te. Conduci una trasmissione che è molto piacevole. Come tante mattine alle 6:20, anche oggi mi fa allegria vedere camion e camioncini AMS a Milano che escono dal deposito e con tutte le loro luci girevoli corrono verso i sacchi. Buongiorno, sto sentendo la radio, dico, tra Berlusconi e Di Maio, e ti raccomando, per chi può dare, Renzi, per carità di Dio, ma le famiglie, le persone per bene, ma perché devono votare? Io voglio andare a votare, fare il mio dovere, ma per chi? Per chi? Questa è l'unica domanda a cui non possiamo darvi risposta. La risposta la dovete dare voi. Noi vi possiamo raccontare le storie che attraversano l'Italia, le pecche e le delizie della politica, poi l'idea ve la fate voi. Pinuccio invece puoi dare indicazioni. Da che parte sei schierato tu? Io voto sempre per chi vince. Ah, ecco. Io sono il giorno dopo il voto perché ho votato. Ah, ecco, certo, brava. Anziché, è una tattica sagace votare il giorno dopo, appena uno sa chi ha vinto, e poi glielo vai a dire, ovviamente. Naturalmente. E come si fa? Facciamo la chiamata tipo, che ne so, a Berlusconi dopo le elezioni, o a Renzi, o... Cioè, lo sapevo, guarda, ho lottato tanto per te, ti ha votato tutta la mia famiglia, naturalmente, il vicinato, mi sono prodigato, non perché voglio chiedere qualcosa, però diciamo, poi possiamo sentirci, diciamo, perché avevo un piccolo problema da risolvere, però diciamo, non c'entra niente, io ti ho votato con il cuore perché ci credevo, poi che hai vinto è un'altra cosa. Allora, Augias, Roma è una città perduta e la Raggi è patetica, sentite. Roma è una città ormai al momento perduta, perché abbiamo avuto un'amministrazione Raggi patetica e fatto specchio una popolazione sempre più largamente ridotta allo stato selvaggio, per cui non si rispettano più le regole elementari della convivenza. Presentavo un libro alla Mondadori di Velletri, guardate cosa è successo. Daverio! Italia, paese incapace, le grandi invettive degli intellettuali. Il paese produce le miglior casette di serie nel Trentino Alto Adige, le vendiamo in Australia e l'Italia non è capace di avere 400 casette pronte costantemente, sapendo che il prossimo terremoto ci sarà sicuramente entro 10 anni. Cioè è il paese degli inefficaci, degli incapaci, dei dementi, che per lavarsi la coscienza dice poi ci salverà l'arte, perché l'Italia è il paese dell'arte, l'Italia è il paese della poesia. Ma per carità di Dio, quando è che diventerà maturo questo pezzo del mondo che chiamiamo Italia? È una bella domanda, meno male che ci sono intellettuali che ogni tanto scuotono le coscienze. Ha parlato la dottoressa che era stata violentata in un laboratorio di Catania, è un racconto drammatico. Io non mi insospettisco per niente, anche perché lui la sera prima era già venuto per lo stesso problema. Vado avanti, lui mi segue, appena giungiamo dentro il locale dell'ambulatorio, appena gli volto le spalle per prendere il farmaco dall'armadietto dei medicinali, immediatamente mi aggredisce. E mi comincia a strappare i vestiti, insomma comincia questa violenza che dura per 1 ora e mezza. Mamma mia. E Vasco Rossi, intervistato, pensate un po', da Don Ciotti. L'umanità, secondo me, l'uomo è un miracolo. Siamo noi il miracolo, capito? È l'umanità il miracolo di questa di questa natura, capito? Che era inerte e poi a un certo punto ha cominciato a diventare appunto viva e poi addirittura autocosciente. Cioè, siamo coscienti di vivere, capisci? Noi siamo noi che creiamo il mondo. Un atto per caso è tutto un caso, capito, che ha portato alla vita, però questo non vuol dire che sia per questo una cosa che valga meno. L'avete sentito? L'hai sentito, Pinuccio? Siamo noi che creiamo il mondo. È quasi una riflessione teologica, ed è Vasco Rossi. Ed siamo noi anche che lo distruggiamo, insomma, bisogna anche dirlo. Siamo noi che lo distruggiamo. Sei un cinico, Pinuccio è un cinico, è la maschera di un cinico che non ama il suo paese, ammettilo. No, in realtà io lo amo tanto, però quando si ama tanto, come insomma in una coppia, cominci a notare i difetti e a parlarne, e quindi io col mio paese sto parlando dei nostri difetti, miei e suoi. E lo sai che nel tuo libro racconti un incontro con Maria De Filippi, è vero? Sì, con Maria De Filippi a Rocchetta Sant'Antonio. A Rocchetta Sant'Antonio con la De Filippi? Ma che sì, ci faceva? Io ero a Rocchetta Sant'Antonio perché avevo accompagnato Scanzi Trump al barbiere di Scanzi, che è un barbiere lì, perché lì fa bene i capelli e dove prepara i nuovi format. Il prossimo è una format sull'uncinetto che sta preparando Scanzi. E poi Scanzi? Arriva... Cioè Scanzi sì. Andrea Scanzi? Sì, sì, lui vabbè. Va al barbiere spazia, in Puglia? Diciamo, sì, spazia dal calcio alla pesca all'uncinetto. L'uncinetto, vabbè. Ed era lì e che poi ha tentato di fidanzare Melania con un vecchietto del posto, la De Filippi, facendo un uomo e donna improvvisato, non sapendo che Melania in realtà era già innamorata di Sabino. Di Sabino, ovvio, ma questo si sa, no? Ma Sabino ci sta con Melania oppure... Ci sta, però poi alla fine, come quando finisce un'estate, la saluta, perché non gli ha confessato che in realtà è il fidanzato della Merkel, e quindi... Però diciamo, lei è rimasto un po' male. Quindi. Ma vuoi fare una telefonata di auguri a Maria De Filippi? Perché oggi è il suo compleanno. Maria, auguri per questi 22 anni. Perché... 22. Se non sono 22 si porta benissimo qualsiasi età. E poi, Maria, io aspetto Temptation Island invernale, perché quest'estate, quando ho visto quel programma, ho detto, guarda, possiamo chiudere tutto. È una cosa bellissima, io... Rimango lì, quindi aspetto il nuovo riforma di Maria, che credo che se dovesse scendere in politica sarebbe il nuovo premier, perché come dialoga lì con gli italiani credo che non lo faccia nessuno degli attuali politici. E qui la riflessione è seria, allora Pinuccio, Trump Advisor, edito da Mondadori? Berlusconi. Berlusconi, vedi, perché ci ha tenuto lui, lo voleva lui il libro, no? È lui, che perché lui è l'unico che dice basti che se ne parli. Gli altri si offendono. E poi racconti questo viaggio in cui Trump incontra Rosy Bindi, Di Battista, Emiliano, Alfano, Michi Vendola, no? Tutti, ma anche Albano, il tuo corregionale, eh? Sì, ma perché Albano è il vero presidente di regione e non solo, cioè in Puglia sì, puoi conoscere Emiliano, Vendola, ma poi devi conoscere il vero presidente che è Albano. Com'è Albano, visto da vicino, dal vivo, la sua vera faccia? Com'è? Tu che lo conosci Albano, bene. No, Albano innanzitutto ha una lingua tutta sua, poi Albano è il vero proprietario della Puglia, che i rapporti internazionali, cioè Cellino Sammatta è la capitale d'Italia, nessuno lo sa. No, infatti io non lo sapevo, vedi? Perché lui sta con Putin nella cantina, poi notizia vera, lui a settembre-ottobre ha proposto di andare a cantare in Corea, per mettere pace tra Trump e Kim, solo che poi ho pensato tra loro mette pace, ma se quello se andrà a cantare bombarderà noi, quindi ho detto però è quello che muove davvero la politica internazionale Albano, non da che diplomazia. È copiato da Michael Jackson, ricordiamolo. Certo, Michael Jackson ha copiato Albano sui cigni di Balalaika. Allora chiudiamo, era l'anniversario del referendum, Cooperlo lo ricorda così. Il 40% è un po' come pronosticare il Benevento in Champions League. Il Partito Democratico da quella sconfitta ha faticato molto a riprendersi. E il Benevento ci arriva in Champions League? secondo me può farci. È più facile che Benevento arrivi in Champions dei Cherenti, nuovo presidente. No! Ciao Pinuccio, ci fermiamo qui con la parte del Già Svegli. Torniamo fra poco con ovviamente la rassegna stampa. E poi ricordate, alle 8 circa arrivano i cani e i gatti. Strade, no, GR, ciao.